cifre sono in aumento, ma sono in aumento anche perché c'è un'efficace azione di contrasto da parte delle forze dell'ordine e delle procure in giro per l'Italia, che insomma viaggiano a ritmi significativi, particolarmente consistenti. Quest'anno è stato l'anno peraltro anche del boom delle inchieste sui rifiuti, ce ne sono state 29 in giro per le procure italiane che hanno portato all'arresto di oltre 60 persone. Quindi diciamo c'è un'attività di contrasto importante, significativa, che naturalmente dal nostro punto di vista deve essere sempre migliorata. Noi sono anni che diciamo per esempio di inserire i reati ambientali nel codice penale, perché sarebbe un segnale importante dal punto di vista normativo che potrebbe fare passi da gigante nella lotta contro le ecomafie. Sì, io ho fatto l'esempio di Milano-Roma, andata e ritorno, sono 1100 km circa, quindi dovremmo starci, se no c'è chi suggerisce in un'unica tratta da Milano fino a Reggio Calabria, l'ammontare dei rifiuti sequestrati, dei sequestri, cioè i 2 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi sequestrati, sono rifiuti pericolosi, ricordo. Mi dica una cosa, chi se ne avvantaggia di più, le mafie, e su questo non ci sono dubbi, e poi? Le mafie, diciamo che nel periodo di crisi, oggi c'era la vicepresidente di Confindustria, peraltro, la Cristiana Coppola, che ci segue molto da vicino in questa dura battaglia e che evidenziava come l'aumento del fatturato delle ecomafie sia anche funzione della crisi economica, cioè in situazioni di crisi economica le ecomafie guadagnano di più perché evidentemente le aziende, alcune aziende ovviamente, trovano più... Ma è vero che le sanzioni sono basse, 2.000-3.000 euro? Sì, ecco, è quello che dicevo, mentre per il traffico di rifiuti c'è un reato previsto nel nostro ordinamento, per i cosiddetti delitti ambientali il reato non è un reato penale, è un reato amministrativo.